Black California, ancora su dalla sbornia. Crack e pipette, droghe perfette. E se il cuore sente ancora te, è perché vorrei parlarti. Sogni miei sono incubi, in cui non posso più amarti. Ora sei un altro, paranoia e ricordo tutto. Il mio sogno da amarti non potrà mai essere vero. Mi taglio l'anima con il coltello che ho creato di luce. E ogni cicatrice diventa soltanto e dopo fu luce. Quante cazzate con le sfiducie. Io che vorrei fare ancora il saluto del duce. Questa è una società senza un leader. Vorrei averla in mano e comandare tutto. Essere un giaguaro volando sul nulla. Volando sul nulla. Volando sul nulla. Ci sono brividi che rimangono dentro il cuore. Tutte quelle ore sole passate con lo scrivere, col cantare. 100.000 ore lì, prova e riprova. Ecco la mia storia. Ci sono volte che ero stato pieno di boria, ma questa è un'altra storia. Ricordo ancora le lacrime che ho passato. Dio mi ha parlato, mi ha detto stai calmo. La vita migliora. Tu sei un destinato a qualcosa, la gloria. 14 febbraio di sangue. Quante volte sono stato triste. Ho pianto sulle riviste. Vorrei spararmi un colpo in testa, solo per vedere cosa c'è oltre questa finta festa. Vedere l'aldilà di un giorno migliore. Sono ore che passo col cuore pieno d'amore. Vorrei soltanto tornare al dolore di quando ero con te. Ora sarebbe soltanto amore. Vedo nella luce le ombre di caravaggeschi sogni, deliri automatici della mia big. Che faccio? Più danni che Sparta con click. Io mangio soltanto l'amore, vivo d'amore, respiro l'amore, mi trovo d'amore, crack euro, mi fanno un eroe d'amore. Il dolce nettare mi entra nel cuore e trasforma queste solitarie ore in un gioco di dolore e piacere. Sere nere vorrei suicidarmi, tagliarmi, picchiarmi, armi in bocca, spararmi. Ma la vita mi piace troppo, frate. Fammi fare il doppio dei tiri di coca per questo piattino. Rimane destino a parlarmi, non sono più un bambino. Sono una scelta della guerra, dei discredenti, di questi partiti confusi, senza essere troppo illusi. La vita senza essere troppo illusi. Rimane la morte. Assalamualaikum.